lasciami andare incontro al tramonto, dove muore il sole e il buio avanza. Lasciami andare nelle campagne che stanno bruciando in un'estate dannata. Lascia pure che cadano le stelle e che i cinesi conquistino il mondo, tanto poi compreremo da loro perché hanno prezzi migliori dei nostri. Lascia pure che facciano case di sabbia, tanto la vita è la nostra, tanto la vita è la nostra. E mangio pane tutti i giorni, e mangio merda tutti i giorni, e mangio pane tutti i giorni, e mangio merda tutti i giorni. Lasciami parlare di politica, tanto ormai sono tutti d'accordo coi farabutti. Siamo i servi del futuro e ancora crediamo di essere liberi. Ci vendo un pane tutti i giorni, ci vendo merda tutti i giorni, ci vendo nel loro pane tutti i giorni, ci vendo merda tutti i giorni. Andare tuoi figli nei centri cristiani, e mentre rompiamo le palle i musulmani loro vengono stuprati, e mentre ancora si muore di fame loro fanno i suoi festini coi nostri bambini, e gli doniamo i nostri soldi tutti i giorni e torna indietro merda tutti i giorni, e fanno le fuse ai nostri soldi tutti i giorni in cambio della loro merda, in cambio della nostra pelle, in cambio della loro merda. Lasciami andare incontro al tramonto, perché non voglio più vedere questo mondo di merda.